Eccoci qua, li avete sentiti? Tosti, duri, decisi, trasgressivi. Sono per tutto ciò che praticamente viene considerato il non mito e non valore in una civiltà borghese. Sono gli articolo 31. Ci vuole questa tosta durezza per fare collassare i luoghi comuni e le ipocrisie. E il luogo comune di ipocrisia più grande per un giornalista, secondo me, è che chi fa il nostro mestiere possa protestare davvero stando zitto. Chi protesta deve usare la lingua, deve usare le dita, deve usare il corpo, deve usare la propria testa. Non può stare zitto per dire vogliono farmi stare zitto e quindi io inizio a stare zitto. Io sono in totale dissenso con la decisione di questo sciopero. Perché sono per la legge? No, non sono per la legge. Credo che questa legge di cui si parli, la legge chiamata bavaglio, ma insomma quella nata per contenere il fenomeno delle intercettazioni, avesse un buon fine. Lo ripeto sempre, io sono un liberale, liberista, antistatalista. Non mi piace un paese in cui ci sono centinaia di migliaia di persone intercettate. Lo sono anch'io, per essere chiaro. Protesto anche per fatto individuale. Protesto perché sono ascoltato da più procure. Protesto perché sono ascoltato da corpi dello Stato. Per il mestiere che faccio e non mi sembra giusto, a dirvi la verità. Quindi io non sono di quelli che dicono intercettatemi, perché mi sembra una cosa totalmente ipocrita. Io non voglio essere intercettato dallo Stato. Io non voglio essere intercettato da un finanziere, da un carabiniere, da un poliziotto, che non so per chi e perché mi intercetta. Voi dite che non avete niente di cui vergognarvi e nascondervi, quindi che vi intercettino pure. Io invece voglio il mio diritto a starmene per i fatti miei e a svolgere le mie telefonate professionali senza dover rendere conto a un finanziere, a un magistrato, eccetera eccetera. Dopodiché è ovvio che lo Stato ha i suoi diritti e i suoi doveri, io non dico di no, e quindi io ero comunque per limitare il fenomeno delle intercettazioni. Non mi piace comunque questa legge, perché è diventata una cosa che non serve né a superare il vaglio di costituzionalità. Su questo io invito tutti a leggere quello che ha scritto e ha detto la settimana scorsa l'avvocato Caterina Malavenda, che è una grande esperta di diritto dell'informazione, e i suoi 8, quasi 10 punti in cui difficilmente questa legge supererebbe il vaglio costituzionale mi sembrano tecnicamente molto ben scritti e molto ben argomentati. Non si tratta di essere a destra o a sinistra, si tratta di conoscere qual è la giurisprudenza costituzionale del nostro paese in materia di informazione e in materia di facoltà selettiva della magistratura di disporre intercettazioni. Detto questo, la parte più sbagliata nell'errore dell'eccesso di vincoli posti a una magistratura che pure di molti vincoli in più ha bisogno a tutela del cittadino, lo ribadisco, è sicuramente la parte dell'informazione. Quindi io non sono per niente d'accordo con la legge bavaglio, non sono per niente d'accordo con le sanzioni così pesanti, e sanzioni che arrivano fino alla limitazione della libertà personale del giornalista, dell'editore, eccetera eccetera. Detto tutto questo, trovo molto ipocrita, eccessivo, contundente, autocaricaturale questa mania dei giornalisti italiani di dire ci vogliono imbavagliare, stiamo zitti. Mi sembra che non sia un contributo all'abbassamento del tono generale di un paese che è ridotto, ha ridotto tutto a tribù contrapposta. Io lo ripeto spesso, io sono il primo che usa talvolta toni appassionati, fine del motivo per cui sono in onda oggi con l'articolo 31. E